Storie italiane. Lo specchio magico. Tanto tempo fa, nelle strade di Granada, si parlava solo di una cosa. Oh, che cosa triste, un uomo così bello, ma senza un anello. Oddio, sceglierà mai una moglie? Le donne a Granada non vanno bene? Dimmi, tesoro, sarà solo tutta la vita? No, no, non dire parole così spaventose. Lui merita una moglie e noi la regina. Preghiamo per il nostro amato re, che la sua bella e bellissima sposa arrivi. Il nostro re è un bravo uomo. Sono sicura che sta aspettando la donna giusta. Ma chi è la donna giusta per il nostro re? Questa era la domanda che tutti si facevano a Granada. Vostra maestà, ogni donna sarebbe fortunata ad avervi come sposo. Non voglio una donna fortunata. La donna che sposerò sarà la regina di Granada. Dovrà avere un carattere forte. Dovrà avere abbastanza amore per se stessa e per tutto il mio regno. E dovrà essere indulgente e gentile. Beh, vostra maestà, come faremo a sapere se la donna ha tutte queste qualità? Ah, questo è il problema. Io sposerò soltanto una donna senza macchie nel suo cuore. Possiamo chiedere il suo referto medico? Cosa? Duncan, non intendo vere e proprie macchie. Voglio dire che deve avere un cuore pulito. Oh, certo che lo sapevo. Avremo bisogno di qualcosa di magico per aiutarci? Il re era davvero turbato. Avremmo bisogno di qualcosa di magico per aiutarci? Prese la sua decisione e convocò il suo fidato barbiere, Emilio, a palazzo il giorno dopo. Emilio, ho bisogno del tuo aiuto. Ah? Dimmi, Emilio. Cosa succede ad un regno che non ha una regina? Perché fai una simile domanda, signora? Beh, perché non dovrei? Il nostro re non sembra affatto intenzionato a sposarsi. Oh, bene. Scegliere una moglie per lui sarà un problema per me. Cosa intendi? Dopo aver atteso per anni insieme, il re ha finalmente deciso di usare lo specchio magico. Lo specchio magico? Sì, vedi, ho uno specchio magico che avevo trovato in una caverna anni fa. Solo il re lo sapeva e si è fidato di me per tutti questi anni. Ora vuole che lo usi per aiutarlo a trovare la sposa perfetta. Mostrerà chi è la sposa e dove si trova adesso? Mostra il futuro? No, nessuna di queste cose. Quello che fa è mostrare il vero carattere di chi lo guarda. Se non hai un cuore pulito, non appena guardi nello specchio, sul tuo viso appariranno dei pallini. Il re ha deciso di sposare la donna perfetta, l'unica alla quale non appariranno i pallini guardando nello specchio. Quindi solo le donne ricche ed educate possono dare un'occhiata, giusto? Non ci sono criteri su chi può guardarsi allo specchio. L'unica condizione è che la donna deve guardarsi allo specchio. La notizia si diffuse come un fuoco selvaggio. Ogni giorno le donne si riunivano fuori dal barbiere solo per vedere quale donna avrebbe osato guardare nello specchio magico. Passarono i giorni, eppure nessuna entrò. Le donne cominciarono a farsi crescere i capelli lunghi e sempre più lunghi solo per evitare di andare dal parrucchiere. I padri di Granada erano scontenti delle loro figlie. Fiona, perché non ci provi? Per avere bolle sulla mia bellissima faccia? No, grazie, padre. Quindi non pensi di avere un cuore pulito? No, cioè sì. Voglio dire, oh padre, in realtà ho deciso di non sposarmi mai. Cosa? Proprio così. Vivrò con te per il resto della mia vita. Oh, ti amo, papà. Sorprendentemente, Fiona non fu l'unica ad aver improvvisamente fatto un giuramento di non sposarsi mai. Le donne di Granada preferivano rimanere single per il resto della loro vita piuttosto che fare la prova per sposare il re. Alcune donne, infatti, erano talmente spaventate che si rifiutavano addirittura di guardare negli specchi normali. La paura delle bolle non si fermava qui. Venne riferito che alcune donne avevano smesso di usare i cucchiai, con la paura di vedere anche solo per sbaglio il loro riflesso. Oh, preferirei mangiare con le mani. Ma signora, questi sono spaghetti. Oh, a chi importa? Mi piace mangiare gli spaghetti con le mani. Guardami! Dato che nessuna donna entrava nel negozio del barbiere, egli ora tagliava solo i capelli agli uomini. Dimmi, nessuna donna ha avuto il coraggio di guardarsi allo specchio? No, signore. Questo è terribile. Quanto dovrò aspettare per sposarmi? Cosa? Perché tu non ti sposi? Bene, anche io vorrei sposare una donna perfetta. Ah, questo è terribile. Queste qualità sono così difficili da trovare? Non troverò mai una sposa? Vostra maestà, c'è una donna che conosco. Sicuramente non eviterà di guardare nello specchio magico. Ma lei è una... Chi? Dimmi! Pastorella. Emilio, sei fuori di testa? Una pastorella sarà la regina di Granada? Come osi? Perché una pastorella non può essere la regina? Se ha le qualità per essere la regina, allora il fatto che sia nata in una famiglia di pastori non dovrà fermarla. Ricorda, Duncan, i veri leader sono spesso di umili origini. Emilio, vai a cercarla e portala da me. Il giorno in cui la pastorella doveva essere portata a palazzo era il più atteso a Granada. La notizia aveva raggiunto tutti e tutti affollarono il palazzo. C'erano mormorii ovunque. La pastorella entrò con cautela. Era spaventata e nervosa nel vedere così tante persone riunite nel palazzo. Per favore, non preoccuparti, mia signora. Dimmi, non sei preoccupata di guardare nello specchio magico? Sai cosa succederà? Se hai commesso degli errori nel tuo passato e non hai un cuore pulito, il tuo viso si riempirà di bolle. Capisco, Vostra Maestà. Ma io credo che fare errori sia normale per gli esseri umani. Tutti commettiamo errori. Sono sicura di aver fatto molti errori e preso delle decisioni terribili. Ma ho imparato dai miei errori. Sto ancora imparando e lo farò sempre. Non mi vergogno dei miei difetti. Li accetto. Mi rendono più forte. Così dicendo, la pastorella si inchinò al re e si mise davanti allo specchio. Tutti sbirciarono, erano in suggezione. Gli occhi azzurri e la pelle chiara della pastorella apparirono assolutamente impeccabili nel riflesso. Si allontanò per guardare il re, che la fissava amorevolmente. Granada ha trovato la sua regina. Granada ha trovato la sua regina. Tutti si rallegrarono, ma poi si sentì una voce arrabbiata. Aspetta un secondo, chiedo di guardarmi nello specchio adesso. Posso provare che non c'è mai stata alcuna magia in esso. È tutta una bugia. Affare fatto. Abbiamo dato a tutti una buona possibilità di guardarsi allo specchio. Ma nessuno di voi ha avuto abbastanza fiducia in se stesso per farlo. Se lo specchio ha poteri magici o meno, è storia adesso. Avresti dovuto esaminarlo quando ne avevi la possibilità. Hai ragione, maestro. Mi scuso per conto di mia figlia. Mia regina, non dimenticherò mai quello che hai detto. Non dovremmo nascondere i nostri errori. Dobbiamo accettarli e imparare da loro. Se siamo in grado di perdonarci, possiamo facilmente accettare gli errori altrui e perdonare anche loro. Solo allora avremo cuori puliti. E il tuo cuore è veramente pulito, il più pulito di tutti. Granada è onorata di averti come sua regina. Il re era felice di aver trovato la sposa perfetta. La cerimonia di matrimonio fu una delle più grandiose che Granada avesse mai visto. Le persone ballarono e gioirono per aver trovato una regina forte e generosa. Nessuno seppe mai se ci fosse stata davvero la magia nello specchio. Perché il miglior tipo di magia sta nel nostro cuore. Fine.